Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sandona 102 e 200 con una nuova puntata di Overbooking. Continuano i nostri personali festeggiamenti per il 150enario dell'Unità d'Italia. Li abbiamo iniziati la scorsa volta affidandoci alla voce di Elisa Veronese e di tutto lo staff di Overbooking, che ringrazio, per delle letture tratte da quello che è il romanzo che un po', diciamo, ha dato il là in qualche modo, almeno metaforicamente, all'Unità d'Italia, ossia Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo. Abbiamo fatto questa scelta perché, come si diceva nella precedente puntata, c'è stata una querelle sui media e nelle tribune politiche se questo 150enario andasse effettivamente festeggiato oppure no. C'è chi pensa ancora che non si debba, c'è chi invece è molto a favore del festeggiamento. Noi, che siamo dei festaioli convinti, siamo per almeno commemorare questo anniversario. Lo facciamo appunto affidandoci alla voce di Elisa Veronese, e quindi anche in questa puntata, che conclude il nostro festeggiamento, andiamo a leggere appunto dei pezzi scelti da Le confessioni di un italiano. Io vi ricordo che le due puntate speciali per il 150enario, che quindi sono appunto basate sulle letture del libro di Ippolito Nievo, sono scaricabili dal nostro sito, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Potete sempre intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 o mandandoci una mail a radio@radiosandona.it. Prima di lasciare spazio alla voce di Elisa, che è sicuramente preferibile alla mia, un veloce ringraziamento a tutto lo staff, a partire da Daniele Terzarioli in regia e Matteo Polo alla progettazione del programma, a cui io do miseramente voce. Stacco musicale e poi si parte con Le confessioni di un italiano. Thank you. Rio Ferreires, giugno 1851. Quanti mesi che non aggiungo nulla a queste poche note del mio esilio. Ma converrebbe appunto o scrivere un volume al mese o restarsi. Qui tutto nuovo, strano, inopinato. Ma dopo le lontane escursioni fra le tribù selvagge si torna sempre alla pace e alla giocondità della famiglia. Il dottore è contentissimo dei suoi negozi. «Ancora un anno!» mi dice. «E rivedremo Genova!» «Ma voi, perché non prendete parte al nostro commercio? Perché non vi arricchite?» Egli crede che la mia famiglia sia povera. Ne suppone giammai che la loro compagnia fosse grandissimo motivo di trapiantarmi nel Mato Grosso. Perciò rispondo che non ho grandi bisogni, che son giovine. Ed è mia sola ambizione lo avvezzarmi alle rischiose fazioni militari e tornare in Italia, scarso di denari, ma ricco d'esperienza. La Gemma sorride di queste mie parole e il Fabietto strepita che egli pure vuole essere soldato e comandare l'esercito. Il Diavolino si fa robusto ed animoso, cavalca vicino a me le mezze giornate e se usciamo a caccia mi vince nella gustezza del ritiro. Ma io ho compassione di uccidere uccelli di sì vaghe piume che ci guardano passare con tutta confidenza appollaiati sul loro ramo. La mano del fanciullo è meno pietosa e non trema come la mia. Egli è intrepido, forte, quasi brasiliano. Non serba di Venezia che il colore degli occhi e i bei capelli castano dorati. Parla il portoghese come lo avesse imparato a Balia e fa vergogna a noi che zoppichiamo ancora nella pronuncia. Ieri ho ricevuto lettera da casa, ma il papà mi dice di averne scritte 8 o 10 e questa è la prima che mi giunge. Chissà qual sorte avranno corso le mie. Anche l'ingegner Martelli mi scrive che è giunto suo fratello e che andranno insieme a Buenos Aires, chiamati da quel governo per affari coloniali e militari. Colà gli italiani hanno buon nome. Il general Garibaldi ha lasciato gran desiderio di sé e si diceva che ne sperassero il ritorno. Se fosse prima di tornare in Europa, vorrei passarvi per salutarlo e con lui anche i Martelli, che mi sono cari come fossero del mio sangue. Oh patria, patria, come allarghi i tuoi legami per tutto il mondo. Due nati sotto il tuo cielo si ricostruiscono senza palesare il proprio nome sulla terra straniera ed una forza irresistibile li spinge l'uno all'altro fra le braccia. Buenos Aires, ottobre 1852. Tre mesi di viaggio, ma sempre vago, pittoresco, in paesi di bellezze quasi favolose. La distrazione guarì affatto la Gemma. Ella mi sorrideva, quasi per ringraziarmi delle molte brighe che io mi assumeva per lei. Giunti a Buenos Aires, i Martelli ne erano partiti per una città dell'interno a stabilirvi i rudimenti d'una colonia. Ma un capitano, amicissimo dell'ingegnere, che salpava per Marsiglia, avrebbe fatto il piacere di condurre la Gemma a Genova presso una sua zia. Egli aveva moglie a bordo e il partito era per ogni verso convenientissimo. Quanto a me, voleva tornare a Rio de Janeiro per prendere di là la mia rivincita su quegli indiani maledetti. Se non che, quando io scopersi queste mie idee alla Gemma, ella chinò il mento sul petto e due fiumi di lacrime le sgorgarono dagli occhi. «Cosa avete?» le chiesi. «Forse vi dispiace lasciare l'America?» «Oh, tanto!» mi rispose ella singhiozzando e guardandomi con occhi pieni di preghiera. Il risultato si fu che ci sposammo 4 settimane dopo e si pensò a partire in compagnia per l'Europa. Allora non ne dispiacque più di abbandonare l'America. E quanto a me, rinunciai per amor suo alla vendetta sugli indiani. Oh, qual creatura adorabile la Gemma. Dio mi dia bene. Ma da 2 mesi che siamo marito e moglie, non ho pensato ad altro che ad amarla. Ci fermammo qui, sperando di salutare i Martelli. Ed anche un partistagno che ci dice essere con loro. Ma siccome pare che tarderanno, penso di intraprendere una gita all'interno per salutarli. Intanto fui utile al governo col disegnare i piani di una nuova colonia sulla spiaggia oltre il Rio, la quale sarà composta tutta di italiani e per luogo più opportuno riuscirà certo assai meglio dell'altra, alla quale invano attendono da un anno i Martelli. Anche vorrei abboccarmi con loro prima di partire, per dar loro qualche ragguaglio in proposito. E soltanto mi spiace che, essendosi sollevate le province del Mezzogiorno, mi toccherà allungare d'assai il viaggio per trovarli. There's 7 million kilowatts running right above our heads, and that's a lot of juice, you know, it's enough to kill us dead. And as a tingle creeps across my skin, runs down my spine up again. And I can see electricity spark every hungry touch. Well, sliding kind of slippery like on the hot hood of this truck. And it's what you call a double sin, what I'm doing to her, what you doing to him. But we could not go to your place, and we sure can't go to mine. So we're out here going at it, beneath these power lines. And I pulled up to the power pole. Give it a little thump. I seen you cut your eyes at me, and I just popped the clutch. And flaming sparks lit up the dark. They come a raining down like burning hot balls. But we could not go to your place, and we sure can't go to mine. we're out here going at it far beneath these power lines. In high voltage wires, in distant stars, everything I need, I just want more. Signs are everywhere, danger keep away, I hear you whisper to yourself, this looks like the perfect. There's a crackling, buzzing sound shooting down from up above. The current's ripping through the air. It goes burning in my blood. I feel it racing through my veins. A deadly force has got to work on you like a welding torch. Yeah, we could not go to your place, and we sure can't go to mine. So we're out here going at it part beneath these power lines. Yeah, we could not go to your place, and we sure can't go to mine. So we're out here going at it beneath these power lines. Saladiglia, febbraio 1855. Son prigioniero da 28 mesi nelle mani di questi insorgenti che mi trascinano dietro al loro campo come un misero schiavo. Ho due bambini, figlioli della schiavitù e della sventura. La loro povera madre mi accompagna sempre e sconta amaramente l'audacia di aver voluto unire il suo destino al mio. Purtroppo, dopo aver lasciato il padre e il fratello sopra questa terra vorace di America, ci lascerà anche il marito. La febbre mi consuma e domani forse sarò cadavere. Oh padre, oh madre mia, oh miei dolci fratelli, quanto sarebbe lieto il mio spirito di spiccar d'infra voi il suo volo per il cielo. Benedetto peraltro Iddio, che anche sugli ultimi confini del mondo seppe circondar la mia morte di affetti soavi. Tre angeli intorno al letto mi fanno fede, notte e giorno, della eterna beatitudine. O padre mio, sento che la morte si avvicina e che i miei patimenti terreni sono al loro termine. Tu, verso del quale io ebbi sì gran torti, perdona al mio spirito fuggitivo la sua ingratitudine, consola di qualche compianto la penitenza che egli si è imposta, rendi pura e onorata la mia memoria, se non all'ossequio e alla compassione della patria, e raccogli fra le braccia questa vedova infelice, questi innocenti orfanelli, che la mano di Dio proteggerà, guidandoli per mari e per terre, fino alla soglia della tua casa. Quando essi picchieranno umilmente la tua porta, tremino di compassione i vostri cuori, che non ci sia neppur bisogno di pronunciare i vostri nomi. Io vi farò conoscenti l'uno dell'altro, io vi spingerò l'uno all'altro fra le braccia. Ma il pensiero di Giulia aggiunga e non tolga dolcezza alle vostre lacrime. Così finiva di scrivere il mio sventurato figliuolo e morì il giorno appresso fra le braccia della moglie. Costei non sapeva decidersi a partire da quel continente malaugurato nel quale riposavano i suoi più cari. S'attardò a Saladiglia per quanto gli insorgenti le permettessero di tornare a Buenos Aires per imbarcarsi. Vi tornò finalmente nel giugno, ma la sua vitalità era già corrosa da un cancro immedicabile. I martelli scrivevano di averla veduta piegarsi sulla tomba ogni giorno più con la rassegnazione d'una martire. Soltanto piangeva di abbandonare i suoi figliuoli, ma consolavasi col pensiero che affidati a tali amici essi sarebbero giunti a salvamento nella famiglia del padre loro. Le parole che l'aggiunse di suo proprio pugno sotto il giornale di Giulio furono e saranno sempre inondate dalle mie lacrime ogni qualvolta le leggerò. Padre, diceva ella, mi rivolgo a voi, perché altro padre, né fratello né parente, io ho più sulla terra. Soltanto due figlioletti mi siedono ora sulle ginocchia, che domani giocheranno su una tomba. Padre mio, divisi da tanto mondo, pure l'affetto, o morti o vivi, ne congiungerà sempre. Io ho amato il vostro Giulio come lo amaste voi. Ora egli mi chiama dall'alto dei cieli e io per volontà di Dio sono la prima a seguirlo. Oh Perché non ho potuto bearmi almeno una volta delle vostre venerabili sembianze? Sconosciuti l'uno all'altra, passammo per questa terra ed eravamo tanto uniti quanto lo può essere a padre e figliuola. Ma anche questa è un'arra che ci vedremo nel cielo. Dio non può dividere per sempre l'amore dall'amore. E gli spiriti, attraverso gli spazi dell'universo, si trovano più facilmente che due amici in un piccolo paese. Oh, padre mio, voi tarderete a seguirci. Tarderete per il bene dei figli nostri, lo so. Ci invidierete, e il tardare vi sarà un tormento. Ma per carità, non abbandonate gli orfani affatto sopra la terra. Io son donna, io son debole, eppur prego e scongiuro Dio che si imparino dal vostro esempio e dalla vostra bocca a imitare il padre loro. Arrivederci. Arrivederci in cielo. Thank you. Così si volgeva a me quell'anima celeste dal suo letto di morte e posava la penna per posare insieme i dolori della sua vita mortale. Oh, io mi ricordava suo padre, mi ricordava la fanciulletta che gli dava mano e attirava gli sguardi in piazza per la sua angelica bellezza. Cotale doveva trovarla, figlia, fantasma e dolore. Doveva perderla prima di saperla d'averla avuta. Doveva cominciare ad amarla per piangere sopra due tombe invece che sopra una. Doveva sollevare le mie speranze al cielo perché là mi si concedesse di rimeritarla presto dell'amore che ella aveva portato a mio figlio. Il mio cuore è ebbro di speranza, i miei occhi sono pieni di lacrime. Ed ora vivo coi miei figli e coi figliuoli dei miei figli, contento di aver vissuto e contento di morire. Sono anche felice di poter fare qualche bene a vantaggio degli altri. Raimondo, che è morto qui in campagna durante la rivoluzione, ha avuto l'idea molto onorevole per me di raccontarmi la sua prole. Io ho scordato l'inimicizia d'un tempo e allargo la mia paternità sopra quest'altra famiglia, così potessi beneficiare tutti gli uomini e che la potenza corrispondesse alla buona volontà. Luciano mi lusinga d'un'altra visita per questa primavera. I piccoli sono lieti di aver per compagno di viaggio il loro zio Teodoro, che non si è mai ammogliato ed è la loro delizia. Demetrio, poveretto, datosi anima e corpo alla Russia, s'arrotolò per colonnello nella legione moldava e morì sui campi di Oltenizza, portando in cielo la speranza dell'impero greco di Bisanzio. Ma la forza delle idee non si spegne e le anime dei loro misteriosi recessi seguitano a premere questo mondo riottoso e battagliero. Da ultimo ho ripreso fra mano la famosa opera del conte Rinaldo e fra un mese ne sarà pubblicato il secondo fascicolo. La somma occorrente è già depositata presso il tipografo e la stampa non soffrirà intuizioni. Spero che se ne gioverà assai la patria letteratura e che gli studi critici sul commercio veneto e sulle istituzioni commerciali dei veneziani durante il Medioevo serviranno di splendido commento alla storia che va compilando con sì profonda dottrina il nostro Romanin. Gli italiani impareranno a conoscere un altro ingegno sterminato e modesto che si consumò oscuramente nella polvere delle biblioteche e fra le cifre d'una ragioneria. Io sarò contento di aver eseguito a puntino gli ultimi desideri d'un uomo che meritava più assai di quanto non cercò mai di ottenere. Le domeniche, quando con la carrozza conduco la Pisana a mio genero e i quattro nipotini, o alla fontana di Vendecchio a Fratta, mi passa sulla fronte una nuvola di melanconia. Ma la cancello tosto con la mano e riprendo la solita ilarità. Enrico si maraviglia di trovarmi così sereno e allegro dopo tante disgrazie. Nell'età non tanto allegra, di 83 anni. Io gli rispondo: figliuolo mio, i peccati affliggono più delle disgrazie, ma quei pochi che io avea, credo averli scontati abbastanza e non me ne spauro. Quanto alle disgrazie, non danno più gran fastidio sul limitare della tomba. E senza creder nulla, senza pretender nulla, mi basta essere sicuro che al di là né mi attende sorte peggiore né castigo veruno. Bada a procacciarti una tal sicurezza e morirai sorridendo. luce eterna e divina, io affido ai tuoi raggi imperituri la mia vita tremolante che sta per spegnersi. Tanto sembra spento il lumicino cospetto del sole, come la lucciola che si perde nella nebbia. La tranquillità dell'anima mia è oggi mai imperturbata, come la calma d'un mare su cui non possono i venti. Cammino alla morte come ad un mistero oscuro imperscrutabile, ma spoglio per me di minacce e di paure. Se fosse fallace questa mia sicurezza, la natura si piacerebbe a schernire e contraddire se stessa. Non posso crederlo, perché in tutto l'universo non ho trovato ancora né un principio che sfreddi e riscaldi, né una verità che neghi ed affermi. Un brivido mi avvisa della vicinità del pericolo. Sarebbero tanto cieche le menti da non aver neppure l'involontario accorgimento dei nervi. Oh no, lo sento dentro di me. Lo dissi con fede incrollabile e lo ripeto ora con ferma speranza. La pace della vecchiaia è un placido golfo che apre a poco il varco all'oceano immenso e infinito e infinitamente calmo dell'eternità. Non vengo più i miei nemici sulla faccia della terra. Non veggo gli amici che mi hanno abbandonato ad uno, velandosi dietro le ombre della morte. Dei miei figli chi se n'è andato con generosa impazienza, chi si è scordato di me e chi rimane al mio fianco per non farmi disprezzare i beni sicuri di questa vita, mentre aspiro agli ignoti e misteriosi dell'altra. Ho misurato coi brevi miei giorni il passo d'un gran popolo e quella legge universale che conduce il frutto a maturanza e costringe il sole a compiere il suo giro, mi assicura che la mia speranza sopravvivrà per diventare certezza e trionfo. Che deggio chiedere di più? Nulla, fratelli. Io piego la fronte più contento che rassegnato sul guanciale del sepolcro e godo di vedersi allargar sempre più gli orizzonti ideali mano a mano che scompaiono i terrestri dalle mie pupille affralite. O anime mie sorelle di sangue, di fede e d'amore, trapassate o viventi, sento che non è finita ogni mia parentela con voi. Sento che i vostri spiriti mi aleggiano carezzevoli d'intorno, quasi invitando il mio a ricongiungersi col loro aereo drappello. O primo ed unico amore della mia vita, o mia Pisana, tu pensi ancora, tu palpiti, tu respiri in me ed intorno a me. Io ti veggo quando tramonta il sole, vestita del tuo purpureo manto d'eroina, scomparir fra le fiamme dell'Occidente, e una folgore di luce della tua fronte purificata lascia un lungo solco per l'aria, quasi a disegnarmi il cammino. Ti intravedo azzurrina e compassionevole al raggio morente della luna. Ti parlo come a donna viva e spirante nelle ore meridiane del giorno. Oh, tu che sei ancora con me, tu sarai sempre con me, perché la tua morte ebbe affatto la sembianza d'un sublime ridestarsi a vita più alta e serena. Sperammo e adamammo insieme. Insieme dovremo trovarci là dove si raccolgono gli amori dell'umanità passata e le speranze della futura. Senza di te che sarei io mai? Per te sola, o divina, il cuore dimentica ogni suo affanno e una dolce malinconia suscitata dalla speranza lo occupa soavemente. Ringraziamo ancora una volta Elisa Veronese per quest'ottima interpretazione dei passi scelti dal romanzo Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, romanzo da noi scelto come celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, a cui abbiamo voluto dedicare due puntate speciali di Overbooking, la scorsa e appunto la presente, per ricordare tramite lo strumento che ci ha dato sia la radio, e per questo ringraziamo Radio San Donà, ricordare degnamente, per quanto nelle nostre possibilità, questa importante data. Dalla prossima settimana Overbooking ritorna nel suo abituale format, quindi ci dedicheremo a un libro commentandolo, leggendone alcune parti, ancora una volta grazie ad Elisa e grazie ad Alice Montagnier, e lasceremo spazio alle interviste con gli autori, così come vi abbiamo sempre abituati. Un ringraziamento a Daniele in regia che mi ha supportato per tutta per finora e anche in questa puntata, e al tutto lo staff di Overbooking, soprattutto a Matteo Polo. Vi lascio con una canzone di Leonard Cohen, questa è I'm Your Man. Thank you. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another,